prima domenica del tempo ordinario. Lettura dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò i dodici e incominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi e ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, ma calzati solo i sandali non indossassero due tuniche. E diceva loro: entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per loro. E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Grazie.